Capitolo 15. Una tempesta in un bicchier d'acqua. Ah, che giornata stupenda! Esclamò Anna con un sospiro soddisfatto. Non è meraviglioso essere vivi in un giorno come questo? Mi spiace per quelli che non sono ancora nati perché se lo stanno perdendo. Certo, avranno le loro belle giornate, ma non potranno mai vivere questa. E non è ancora più bello poter andare a scuola su un sentiero così adorabile? Molto meglio che fare il giro lungo. La strada adesso è talmente polverosa e calda con questo sole, ammise Diana con praticità, curiosando nel cestino del pranzo e calcolando mentalmente quanti bocconi delle tre deliziose crostatine ai lamponi che vi riposavano sarebbero toccati a ciascuna delle 10 compagne. Le bambine di Avonlea condividevano sempre il pranzo. Quindi chiunque di loro avesse mangiato da sola o diviso soltanto con l'amica del cuore un tesoro così prezioso, sarebbe stata definita per sempre un'orrenda egoista. D'altronde dividere le tortine in 10 sarebbe stata solo una tortura per tutte. La stradina che Anna e Diana percorrevano per andare a scuola era davvero piacevole. Secondo Anna, quelle passeggiate con l'amichetta erano già perfette e non c'era nessun bisogno di far intervenire la fantasia, il che è tutto dire. Percorrere la strada principale sarebbe stato poco romantico, invece arrivare a scuola passando per il sentiero degli innamorati, lo stagno dei salici, la valle delle violette e il viottolo delle betulle era molto poetico, più di qualsiasi altra cosa al mondo. Il sentiero degli innamorati partiva subito dopo il frutteto di Green Gables e serpeggiava nel bosco fino alla proprietà dei Cuthbert. Era il passaggio usato per portare le mucche ai pascoli dietro la casa e per trascinare le provviste di legname durante l'inverno. Anna l'aveva soprannominato il sentiero degli innamorati meno di un mese dopo il suo arrivo alla fattoria. Non che da queste parti si siano mai visti innamorati, aveva spiegato Marilla, ma con Diana stiamo leggendo un libro stupendo in cui c'è un sentiero degli innamorati, quindi anche noi ne volevamo uno. E poi è un nome molto suggestivo, non ti pare? È così romantico. Non immaginiamo certo di incontrarci qualche innamorato, e comunque, anzi, uno dei motivi per cui mi piace quel sentiero è che posso pensare a voce alta senza che qualcuno mi prenda per strana, perché non c'è mai nessuno da quelle parti. Ogni mattina Anna usciva di casa da sola e percorreva il sentiero degli innamorati fino al ruscello, dove l'aspettava Diana. Da lì proseguivano insieme sotto un'arcata di aceri frondosi. Gli aceri sono alberi estremamente socievoli, diceva Anna, stormiscono e sussurrano con grande dolcezza. Fino a un ponticello. A quel punto lasciavano il sentiero e attraversavano i prati alle spalle della proprietà del signor Barry fino allo stagno dei salici, oltre il quale cominciava la valle delle violette, un avvallamento umido e rigoglioso all'ombra dei grandi boschi del signor Andrew Bell. Chiaro, adesso non c'è neanche l'ombra di una violetta, spiegò Anna Marilla, ma Diana dice che in primavera ne spuntano milioni. Oh, Marilla, ma te lo immagini? Basta il pensiero a togliermi il fiato. Diana dice anche che non ha mai conosciuto nessun altro bravo come me a inventare nomi per i posti. È bello essere bravi in qualcosa, no? Il nome per il viottolo delle betulle l'ha trovato lei. Un nome così poteva inventarlo chiunque e di sicuro io ne avrei trovato uno più poetico, ma quel sentiero è uno dei luoghi più piacevoli del mondo, Marilla. Era vero. Anche altre persone la pensavano così quando si trovavano a passare da quelle parti. Era un piccolo sentiero stretto e serpeggiante che scendeva giù per la collina e attraversava da un capo all'altro i boschi del signor Bell, nei quali la luce filtrava tra innumerevoli strati color smeraldo, limpidi e trasparenti come il cuore di una gemma. Era costeggiato da betulle giovani e snelle, dalle cime candide e dai rami sottili e flessuosi. Felci, anemoni stellati, mughetti e arbusti costellati di bacche rosse crescevano fitti lungo i margini. L'aria era colma di un gradevole aroma speziato e del canto degli uccellini che si mescolava al mormorio che produceva la brezza tra i rami. Ogni tanto capitava di incrociare un coniglietto che attraversava saltellando il sentiero, ma solo se ci si muoveva molto lentamente, cosa che Anna e Diana facevano di rado. Sul fondo della valle il sentiero sfociava nella via principale. Subito dopo ci si trovava su un'altura coperta di abeti rossi, accanto alla quale c'era la scuola. La scuola di Avonlea era un piccolo edificio intonacato di bianco, con cornicioni bassi e grandi finestre. L'interno era arredato con comodi e semplici banchi antiquati, con le ribaltine che si aprivano e si chiudevano scricchiolando, e i piani incisi con iniziali e disegni di 3 generazioni di scolari. La costruzione era leggermente arretrata rispetto alla strada e aveva alle spalle un boschetto di abeti attraversato da un ruscello, dove i bambini immergevano le bottiglie di latte per tenerle al fresco fino al momento del pranzo. Il primo giorno di settembre Marilla aveva salutato Anna che andava a scuola con una certa preoccupazione nel cuore. Era una bambina talmente particolare come si sarebbe trovata con gli altri compagni e sarebbe riuscita a tenere a freno la lingua durante le lunghe ore di lezione. Le cose però andarono meglio del previsto. Quel pomeriggio Anna tornò a casa di ottimo umore. «Credo che andare a scuola qui mi piacerà», annunciò soddisfatta. «Però il maestro non mi ha convinto». Passa il tempo ad arricciarsi i baffi e a fare gli occhi dolci a Prissy Andrews. Prissy è grande, sai, ha 16 anni e si sta preparando per sostenere l'esame di ammissione alla Queen's Academy, l'Accademia di Studi Superiori di Charlottetown, l'anno prossimo. Tilly Boulter dice che il maestro è cotto di lei. Prissy ha una carnagione stupenda e una massa di ricci castani con una pettinatura davvero elegante. Sta seduta su una panca lunga in fondo alla classe e anche il maestro sta seduto lì per la maggior parte del tempo. Deve spiegarle le lezioni, dice, ma Ruby Gillis ha raccontato a tutti che l'ha visto scrivere qualcosa sulla lavagnetta di Prissy e quando lei ha letto è diventata tutta rossa e si è messa a ridacchiare. Ruby dice che la scritta non c'entrava niente con la lezione. Anna Shirley, non permetterti mai più di parlare in questo modo del tuo maestro. La rimproverò brusca Marilla. Non vai a scuola per criticare l'insegnante. Il suo lavoro è insegnare e il tuo compito è imparare. Non voglio sentirti raccontare storie sul tuo maestro. Non ho la minima intenzione di incoraggiarti in questo senso. Comunque, mi auguro che tu ti sia comportata come si deve. Certo, rispose Anna tranquilla. Non è stato neanche difficile. Mi sono seduta vicino a Diana. Il nostro banco è accanto alla finestra e possiamo guardare fuori fino al lago delle acque scintillanti. A scuola ci sono tante bambine simpatiche e durante la ricreazione abbiamo giocato tutte insieme ed è stato molto divertente. È bellissimo avere tante compagne con cui giocare. Ovvio, Diana è la mia preferita e questo non cambierà mai. Io adoro Diana. Nello studio sono terribilmente indietro rispetto alle altre. Loro sono già al 5° libro mentre io sono ancora al 4°. Un po' mi vergogno, sai, però nessuna di loro ha la mia fantasia e l'ho capito subito. Oggi abbiamo fatto lezione di lettura, geografia, storia del Canada e un dettato. Il signor Phillips ha detto che la mia ortografia è pessima e ha mostrato alla classe la mia lavagnetta piena di correzioni. Mi sono proprio sentita mortificata, Marilla. Il maestro avrebbe potuto essere un po' più gentile con una luna appena arrivata. No. Ma poi Ruby Gillis mi ha regalato una mela e Sophia Sloan mi ha dato un cartoncino rosa delizioso con la scritta «Facciamo la strada insieme?» Glielo restituisco domani. E Tilly Boulter mi ha permesso di portare il suo anello di perline per tutto il pomeriggio. Potrei prendere le perline del tuo vecchio puntaspilli per fare un anello tutto mio? E poi, oh Marilla, senti questa, Jane Andrews mi ha detto che Minnie McPherson le ha detto che ha sentito Prissy Andrews dire a Sarah Gillis che ho un gran bel nasino. È il primo complimento che ricevo da quando sono nata. Non puoi neanche immaginare che strana sensazione ho provato. Senti, Marilla, io ho davvero un bel naso? Sono sicura che tu mi dirai la verità. Il tuo naso va benissimo. Taglio corto, Marilla. In segreto pensava che il nasino di Anna fosse davvero grazioso, ma non si sognava proprio di dirglielo. Questa conversazione risaliva a 3 settimane prima e da quel momento era andato tutto bene, almeno fino a quel giorno. Nel fresco mattino di settembre Anna e Diana saltellavano giù per il viottolo delle betulle ed erano 2 delle bambine più felici di Avonlea. «Credo che oggi Gilbert Blight tornerà a scuola», disse Diana. «È stato dai suoi cugini a New Brunswick per tutta l'estate ed è tornato a casa solo sabato sera. Sai, Anna, Gilbert è straordinariamente carino e prende in giro tutte le bambine. Ci tormenta proprio». Il tono di voce di Diana lasciava intendere che preferiva di gran lunga essere tormentata che trascurata. Gilbert Blythe? Replicò Anna. Non è il nome che c'è scritto sul muro del portico vicino a quello di Julia Bell? Sì, confermò Diana, gettando la testa all'indietro, ma tanto lo so che Julia Bell non gli piace poi tanto. Una volta l'ho sentito dire che usava le sue lentiggini per studiare le tabelline, figurati. No, ti prego non parlarmi di lentiggini, la implorò Anna. Non è gentile con tutte quelle che ho io. Comunque i nomi scritti sul muro sono una stupidaggine, secondo me. Voglio proprio vedere se qualcuno si permette di scrivere il mio nome accanto a quello di un maschio. A parte che non potrebbe mai succedere, si affrettò ad aggiungere. Anna sospirò. Non voleva proprio che il suo nome venisse scritto sul muro, ma era umiliante lo stesso sapere che non c'era il rischio che capitasse. Ma che sciocchezza, ribatté Diana, con i suoi begli occhi neri e i capelli morbidi, come la seta. Aveva creato un tale scompiglio tra gli scolari di Avonlea che il suo nome era scritto sul muro del portico accanto a quello di almeno 5 o 6 ragazzini. Guarda che è soltanto un gioco, e non essere tanto certa che non ci troverai mai il tuo nome scritto su quel muro. Charlie Sloane, per esempio, è cotto di te. Ha detto a sua madre, ripeto a sua madre, che sei la femmina più intelligente di tutta la scuola ed è meglio che essere carine. Non è vero, obiettò Anna, femminile fino al midollo. Io preferirei di gran lunga essere più bella che intelligente. E comunque detesto Charlie Sloane. Non posso sopportare un ragazzino con gli occhi sporgenti. Se qualcuno scrivesse il mio nome vicino al suo, non glielo perdonerei mai, Diana Barry. Comunque in effetti è piacevole essere la prima della classe. Sì, anche se adesso ci sarà Gilbert, disse Diana. Ed è sempre stato lui il primo della classe. Ci è abituato. È ancora al quarto libro come te, anche se ha quasi 14 anni, perché 4 anni fa suo padre ha avuto una malattia grave e tutta la famiglia si è trasferita ad Alberta per le cure che gli servivano. Ci sono rimasti quasi 3 anni e là Gilbert ha frequentato molto poco la scuola. D'ora in poi non sarà tanto facile essere sempre la prima, Anna. Mi fa molto piacere, fu pronta a rispondere lei. Non avrei potuto essere fiera di essere la prima di una classe di bambini di 9 o 10 anni. Ieri mi sono alzata per scrivere alla lavagna la parola ebollizione e in quel momento la capoclasse era Josie Pye e per correggermi ha guardato sul libro. Il signor Phillips non se n'è accorto. Stava fissando Prissy Andrews come al solito, però io sì. Allora le ho lanciato un'occhiata di ghiaccio, piena di disprezzo. Lei è diventata tutta rossa e alla fine lo ha scritto sbagliato anche lei. Oh, quelle Pye sono delle grandi imbroglione, commentò indignata Diana mentre scavalcavano la staccionata per raggiungere la strada. Figurati che ieri Gertie Pye ha messo la sua bottiglia di latte al mio solito posto nel ruscello. Ma ti pare? Quindi adesso non le rivolgo più la parola. Quando il signor Phillips andò in fondo all'aula da Prissy Andrews per farle ripetere la lezione di latino, Diana ne approfittò per bisbigliare ad Anna. Quello seduto accanto a te, nell'altra fila di banchi, è Gilbert Blythe. Dagli un'occhiata e dimmi se non è bellissimo. Anna lo guardò e poté farlo con calma, visto che il suddetto Gilbert Blythe era tutto preso a bloccare con una puntina la lunga treccia bionda di Ruby Gillis, seduta nel banco davanti a lui, allo schienale della sedia. Era un ragazzo alto, con i capelli ricci e castani, occhi color nocciola dall'espressione furba e una bocca dalla piega ironica. In quel momento il maestro disse a Ruby di eseguire una somma. Lei si alzò e ricadde sulla sedia con uno strillo. Aveva avuto la sensazione che i capelli le si staccassero dal cranio. Si girarono tutti verso la bambina e il signor Phillips la fulminò con uno sguardo talmente severo che Ruby scoppiò a piangere. Gilbert aveva fatto sparire la puntina in un lampo e aveva gli occhi fissi sul libro di storia con l'aria più tranquilla e innocente del mondo. Poi, appena la confusione si fu placata, si voltò verso Anna e le strizzò l'occhio con aria complice. «In effetti il tuo Gilbert Blythe è davvero bello», confidò Anna a Diana. «Ma secondo me è un po' troppo sfacciato. Non è buona educazione strizzare l'occhio a una sconosciuta». Fu solo nel pomeriggio, però, che successe quel che successe. Ancora una volta il signor Phillips era nell'angolo in fondo alla classe per spiegare un problema di algebra a Prissy Andrews, mentre il resto degli alunni stava facendo più o meno quel che voleva, chi mangiava una mela, chi parlottava, chi disegnava sulle lavagnette e chi faceva passeggiare avanti e indietro nel corridoio, tra i banchi, alcuni grilli legati a un filo. Gilbert Blythe faceva di tutto per attirare su di sé lo sguardo di Anna, ma invano, perché in quel momento lei era completamente ignara dell'esistenza di Gilbert Blythe e di quella di ogni altro alunno della scuola di Avonlea. Con il mento appoggiato sulle mani e gli occhi fissi sui riflessi blu del lago delle acque scintillanti che si intravedeva dalla finestra del lato ovest, Anna era lontanissima in una magnifica terra di sogno e non vedeva né sentiva nulla, a parte le sue fantastiche visioni. Gilbert Blythe non era abituato a doversi sforzare per farsi guardare da una ragazzina e soprattutto a non riuscirci. Quella Shirley con i capelli rossi, con il suo piccolo mento appuntito e gli occhi grandi come nessun'altra bambina della scuola di Avonlea, doveva guardarlo. Perciò Gilbert allungò la mano oltre il corridoio tra i banchi, afferrò l'estremità di una treccia rossa, la sollevò e disse in un sussurro perfettamente udibile: «Pel di carota, pel di carota!» Anna, come una furia, gli rivolse uno sguardo inceneritore, ma non si limitò a guardarlo. Balzò in piedi. Tutti i suoi castelli in aria ormai ridotti a rovine e dimenticate, rivolse a Gilbert un'occhiata sdegnosa, con gli occhi pieni di una rabbia incandescente che si sciolse presto in lacrime altrettanto furiose. «Tu, odioso, brutto e cattivo!» sbottò appassionata. «Come ti permetti?» Dopodiché, stamp, sbatté la lavagnetta sulla testa di Gilbert e la spaccò, la lavagna, non la testa, in due. Gli allievi della scuola di Avonlea sapevano sempre apprezzare un bello spettacolo. Quella scena in particolare fu davvero divertente. Tutti fecero «Oh!» con inorridita delizia. Diana trattenne il respiro. Ruby Gillis, che era un po' isterica, scoppiò a piangere. Tommy Sloane si lasciò sfuggire la squadra di grilli e rimase a fissare a bocca spalancata la lavagnetta spezzata. Il signor Phillips avanzò a grandi passi tra i banchi e posò una mano pesante sulla spalla di Anna. «Anna Shirley, che cos'è questa storia?» le chiese molto arrabbiato. La bambina non rispose. Le ci sarebbe voluto troppo coraggio per dichiarare di fronte a tutta la classe che Gilbert l'aveva chiamata pel di carota. Fu lui che trovò quel coraggio e disse: «È stata colpa mia, signor Phillips, l'ho presa in giro». Ma il maestro non diede retta a Gilbert. «Non mi piace neanche un po' vedere che una delle mie allieve dimostra un carattere così iroso e uno spirito di vendetta del genere», dichiarò solenne, come se il solo fatto di essere suo alunno comportasse l'eliminazione istantanea di ogni passione negativa dal cuore di quei piccoli mortali imperfetti. «Anna, vai sulla pedana davanti alla lavagna. Ci resterai per il resto del pomeriggio». A quella punizione umiliante Anna avrebbe preferito di gran lunga una frustata, che non avrebbe ferito così profondamente la parte più sensibile del suo animo. Con il viso pallido e tirato, ubbidì. Il signor Phillips prese un gesso e nella parte alta della lavagna alle sue spalle scrisse: «Ann Shirley ha un pessimo carattere. Ann Shirley deve imparare a controllarsi». Poi lesse a voce alta, in modo che anche i bambini di prima, che ancora non sapevano leggere, capissero il messaggio. Anna rimase per il resto del pomeriggio con quella scritta dietro le spalle. Non pianse, non abbassò mai la testa. Nel suo cuore la rabbia era ancora vivissima e la sostenne in quei momenti di umiliante agonia. Con gli occhi pieni di risentimento e le guance rosse per l'agitazione, affrontò allo stesso modo gli sguardi di solidarietà di Diana e i cenni indignati di Charlie Sloane e i sorrisetti maliziosi di Josie Pye. Quanto a Gilbert Blythe, non lo degnò di uno sguardo, non lo avrebbe guardato mai più e non gli avrebbe rivolto la parola per nessuna ragione al mondo. Alla fine delle lezioni, Anna uscì dalla classe a grandi passi, tenendo ben alta la testa. Gilbert Blythe cercò di intercettarla sulla porta che dava sul portico. «Mi spiace tantissimo averti presa in giro per i tuoi capelli, Anna», le mormorò con aria contrita. «Sul serio, non tenermi il muso per sempre adesso». Lei lo evitò, sdegnosa, senza guardarlo né dar segno di averlo sentito. «Oh, Anna, ma come hai potuto?» sussurrò Diana mentre camminavano verso casa, con tono pieno di ammirazione e rimprovero allo stesso tempo. Sapeva bene che lei non avrebbe resistito alla preghiera di Gilbert. Non perdonerò mai Gilbert Blythe, replicò Anna risoluta. Oltretutto, signor Phillips ha scritto il mio nome senza la A finale. Il ferro mi è entrato nell'anima. Diana non aveva la minima idea di cosa intendesse l'amica, ma capì che era qualcosa di terribile. Non devi prendertela se Gilbert scherza sui tuoi capelli, le disse cercando di calmarla. Guarda che prende in giro tutte le femmine. Dei miei capelli ride perché sono neri. Mi ha detto un sacco di volte che sembro un corvo, però non l'avevo mai sentito scusarsi, mai. C'è un'enorme differenza tra essere chiamata corvo e pel di carota, replicò Anna con dignità. Gilbert Blythe ha ferito i miei sentimenti in modo atroce, Diana. Se non fosse successo nient'altro, forse la questione si sarebbe chiusa lì, senza ulteriori atroci ferite. Ma quando cominciano ad accadere certe cose, di solito tendono a ripetersi. Gli scolari di Avonlea spesso trascorrevano la pausa del pranzo a raccogliere resina da masticare tra gli abeti del boschetto, sulla collina del signor Bell, o a scorazzare nel grande pascolo. Da lì potevano tener d'occhio la casa di Eben Wright, dove abitava il maestro. Quindi, appena vedevano il signor Phillips uscire dalla porta, si precipitavano verso la scuola, ma poiché la distanza dal boschetto all'edificio era il triplo del sentiero che portava lì dalla casa dei Wright, spesso succedeva che bambini e ragazzi arrivassero in aula affannati, senza fiato, 2 o 3 minuti in ritardo sull'orario. Il giorno dopo quello del litigio tra Anna e Gilbert, il signor Phillips fu preso da uno dei suoi spasmodici impulsi riformatori e, prima di andare a pranzo, annunciò che si aspettava di trovare ogni alunno al proprio posto quando fosse tornato. Chiunque fosse arrivato in ritardo sarebbe stato punito. Tutti i maschi e qualche bambina andarono nel boschetto di abeti rossi del signor Bell, come al solito, con l'intento di non fermarsi a lungo, ma solo il tempo necessario a cogliere un po' di gomma da masticare. Ma i boschetti di abeti sono affascinanti e le gocce di resina dorata talmente allettanti che i bambini ne raccolsero il più possibile. Si sparpagliarono lungo i sentieri e ciondolarono all'ombra. Come sempre, si resero conto che il tempo era volato e l'intervallo già finito solo quando sentirono l'urlo di Jimmy Glover, che dalla cima di un vecchio albero imponente si mise a strillare: «Arriva il maestro!» Le bambine che erano a terra partirono per prime e riuscirono a raggiungere la scuola in tempo, ma non un secondo prima. I maschi, invece, che erano tutti arrampicati sugli alberi, dovettero precipitarsi giù e arrivarono in ritardo. Come Anna, che non stava raccogliendo la resina, ma aveva girovagato allegramente fino al limitare del boschetto, immersa fino alla vita fra le felci, canticchiando sottovoce tra sé, con una ghirlanda di gigli selvatici in testa, come se fosse una divinità di quei luoghi immersi nell'ombra. E fu l'ultima a partire. Ma poiché correva più veloce di un cerbiato, fu un lampo e raggiunse i compagni mentre infilavano la porta ed entrò nell'aula in mezzo a loro, proprio nel momento in cui il signor Phillips stava appendendo il cappello. L'energia riformatrice del maestro si era già placata e il signor Phillips non aveva la minima voglia di punire una dozzina di scolari. D'altra parte doveva pure far qualcosa per mantenere la parola, perciò si guardò intorno in cerca di un capro espiatorio e lo trovò in Anna, che si era appena lasciata cadere sulla sedia ansimante, con la ghirlanda storta su un orecchio che le dava un'aria particolarmente irrispettosa e scarmigliata. Anna Shirley, a quanto pare apprezzi la compagnia dei ragazzi, quindi oggi pomeriggio ho deciso di assecondare i tuoi gusti, la informò sarcastico. Togliti quei fiori dai capelli e siediti accanto a Gilbert Blythe. Gli altri ragazzini ridacchiarono. Diana, pallida per la compassione, si affrettò a togliere la ghirlanda dai capelli dell'amica e le prese una mano. Anna fissò il maestro immobile come una statua. Hai sentito quello che ti ho detto, Anna? La incalzò severo il signor Phillips. Sì, signore, rispose lentamente lei, ma pensavo che non dicesse sul serio. Altro che, se dicevo sul serio, replicò il maestro con quella sfumatura di sarcasmo nella voce che tutti i bambini, Anna in particolare, odiavano, perché significava girare di proposito il coltello nella piaga. Faccio ciò che ho detto, immediatamente. Per un momento tutti ebbero l'impressione che Anna avesse intenzione di disubbidire. Poi, rendendosi conto che non poteva rifiutarsi, la bambina si alzò di scatto, Attraversò il corridoio tra i banchi, andò a sedersi accanto a Gilbert Blythe e sprofondò il viso tra le braccia appoggiate sul banco. Ruby Gillis, che era riuscita a vederle la faccia mentre Anna chinava la testa, tornando a casa da scuola, raccontò agli altri: «Non avevo mai visto assolutamente niente di simile. Era pallida come uno straccio, piena di orribili macchioline roffe». Per Anna, quella fu la goccia che fece traboccare il vaso. Era già bruttissimo e sbagliato che fosse punita solo lei, quando il gruppo dei colpevoli era ben più numeroso. Ma ancora peggio era che fosse costretta a sedere accanto a un ragazzo e che il ragazzo in questione fosse proprio Gilbert Blythe. Poi aggiungeva la beffa al danno, in un modo del tutto inaccettabile. Anna si rese conto che non poteva sopportarlo e che sarebbe stato inutile provarci. Tutto il suo essere ribolliva di vergogna, di rabbia e umiliazione. All'inizio i compagni la guardarono, bisbigliando, ridacchiando e dandosi di gomito, ma poiché Anna non sollevò mai la testa e Gilbert continuò a risolvere le frazioni che aveva davanti come se ci stesse mettendo l'anima, in quell'esercizio e solo in quello, presto tornarono tutti a concentrarsi sui compiti e Anna fu dimenticata. Quando il signor Phillips chiamò alla cattedra gli interrogati in storia di quel giorno, anche Anna sarebbe dovuta andare, ma non si alzò. Il maestro, però, si era distratto, scrivendo alcuni versi di Per Priscilla prima di chiamare gli alunni interessati, e stava ancora pensando a una rima che non funzionava, pertanto non si accorse della sua assenza. A un certo punto, mentre nessuno lo guardava, Gilbert tirò fuori dal banco una caramella a forma di cuoricino, rosa, con la scritta in oro «Sei dolce», e la fece scivolare sotto le braccia di Anna. Lei sollevò la testa, prese il cuore rosa con la punta delle dita, lo lasciò cadere per terra e lo schiacciò sotto la scarpa, riducendolo in polvere. Dopodiché rimise la testa sulle braccia, senza degnare Gilbert di uno sguardo. Alla fine delle lezioni Anna tornò al proprio banco, tirò fuori ciò che conteneva, libri, quaderni, penna e inchiostro, compiti in classe, esercizi di aritmetica, e posò tutto ordinatamente sulle due parti della lavagnetta spezzata. «Perché porti a casa tutta quella roba, Anna?» volle sapere Diana non appena furono in strada. Prima non aveva osato chiederglielo. «Io a scuola non ci torno», fu la secca risposta. Diana rimase senza fiato e guardò negli occhi l'amica per capire se stesse parlando sul serio. «Ma pensi che Marilla ti darà il permesso?» «Sarà costretta», ribatté Anna, «perché io non tornerò mai più a scuola da quell'uomo». «Oh, Anna!» Diana era sull'orlo delle lacrime. «Spero che tu non lo creda davvero. Che cosa farò senza di te? Il signor Phillips mi farà stare in banco con quel mostro di Gertie Pye, è garantito, perché è l'unica in banco da sola. Ti prego, cambia idea!» «Per te farei qualsiasi cosa, Diana, o quasi», rispose mesta Anna. «Mi lascerei fare a pezzi se ti fosse utile, ma questo non lo posso fare, quindi non chiedermelo per piacere. Ottieni solo di spezzarmi il cuore». «Pensa a tutti i divertimenti che ti perderai», gemette Diana. «Costruiremo un'altra casetta vicino al ruscello e la settimana prossima vogliamo andare a giocare a palla tutti insieme. Tu non ci hai mai giocato, Anna. È la cosa più divertente del mondo. E dobbiamo anche imparare una canzone nuova. Jane Andrews la sta componendo in questi giorni e sempre la settimana prossima Alice Andrews porterà a scuola un altro libro di Pansy e ne leggeremo un capitolo ciascuna durante la ricreazione giù al ruscello. A te piace tanto leggere a voce alta». Ma nulla riuscì a convincere Anna, che ormai aveva preso la sua decisione. Non sarebbe tornata a scuola dal signor Phillips mai più, annunciò a Marilla appena tornata a casa. «Che stupidaggine!» commentò la donna. «Non è una stupidaggine!» ribatté Anna serissima, fissando Marilla. «Come fai a non capire? Sono stata insultata!» «Insultata un bel niente. Domani mattina tu vai a scuola, punto e basta!» «No!» Anna scosse la testa piano. «Io non ci torno, Marilla. Continuerò a studiare a casa. Farò il più possibile la brava e terrò sempre a freno la lingua, o almeno ci proverò, ma a scuola non ci torno, punto e basta!» Marilla Si rese conto che sul faccino di Anna c'era un'espressione di incrollabile ostinazione e capì che sarebbe stato molto difficile convincerla a rinunciare ai suoi propositi, però decise saggiamente di non insistere, almeno per il momento. Mi converrà a fare una scappata giù da Rachel stasera, si disse. Non ha senso cercare di far ragionare Anna adesso, è troppo arrabbiata e mi sa che è capace di incaponirsi tremendamente se ci si mette. Certo, da quello che ho capito dal suo racconto, il signor Phillips ha usato davvero la mano pesante. Comunque non serve a niente dirlo alla bambina. Ne parlerò con Rachel. Lei ha mandato a scuola 10 figli e dovrebbe capirne qualcosa. Tanto ormai a quest'ora sarà già al corrente di tutto. Marilla trovò la signora Linde che si dedicava con la solita energia al suo lavoro a maglia, allegra e indaffarata come sempre. Probabilmente lei conosce già la ragione della mia visita, esordì un po' a disagio. La signora Linde annuì. Immagino che sia per la scenata di Anna di oggi a scuola, disse. Tornando a casa, Tilly Balter si è fermata a trovarmi e mi ha raccontato tutto. Non so bene come comportarmi, mormorò Marilla. Anna dice che non vuole più tornare a scuola. Non avevo mai visto una bambina così esasperata. Temevo che nascesse qualche problema dal primo giorno di scuola. E me lo sentivo che stava andando tutto troppo liscio per durare. Anna è fuori di sé. Cosa mi consiglia di fare, Rachel? Beh, Marilla, visto che me lo chiede, rispose la vicina, compiaciuta. La signora Linde adorava dare il proprio parere su tutto. Almeno per un po' io la lascerei fare. Secondo me il signor Phillips ha sbagliato. Non sono cose da dire ai bambini, lo sappiamo. Ieri il maestro ha fatto bene a punirla per il suo comportamento, ma oggi era tutto diverso. Gli altri ritardatari dovevano essere puniti insieme ad Anna, senza ombra di dubbio, e non credo proprio che far sedere una bambina accanto a un maschio sia una punizione adeguata. Io lo trovo sconveniente. Tilly Balter era davvero indignata, ha preso le parti di Anna e mi ha riferito che tutti i bambini hanno fatto lo stesso. Chissà perché, ma Anna è molto popolare fra i compagni. Non avrei mai pensato che sarebbe andata tanto d'accordo con gli altri. Quindi, secondo lei, dovrei permetterle di restare a casa? Chiese Marilla sbalordita. Sì, è meglio non parlare più di scuola finché non sarà la bambina a farlo. Vedrà Marilla, nel giro di una settimana o giù di lì Anna si calmerà e sarà pronta per tornare a scuola di sua spontanea volontà, garantito. Se invece lei la costringe ad andarci domani, chissà che razza di capriccio sarebbe capace di inventarsi, per non parlare dei guai in cui si caccerebbe. Meno importanza si dà alla faccenda, meglio è, se vuole il mio parere. Anna non perderà chissà che non andando a scuola, a giudicare da come vanno le cose là dentro. Il signor Phillips non è un bravo insegnante. L'ordine che tiene in classe è a dir poco scandaloso. Per giunta trascura gli alunni più piccoli e dedica tutto il tempo a quelli più grandi che si preparano per l'esame alla Queen's Academy. Non avrebbe mai ottenuto l'incarico per un altro anno se suo zio non fosse stato uno degli amministratori, anzi l'amministratore, visto che mena per il naso gli altri due membri del consiglio e decide tutto lui. Perché è così che stanno le cose. Io lo dico chiaro e tondo, avanti di questo passo e non so dove andrà a finire l'istruzione pubblica su questa scuola. La signora Lind scrollò il capo come a dire che se fosse stata lei a dirigere il sistema educativo della provincia, le cose sarebbero state gestite molto meglio. Marilla seguì il suo consiglio e ad Anna non fu detta neanche una parola a proposito del ritorno a scuola. La bambina studiava a casa, eseguiva tutte le faccende che le venivano affidate e giocava con Diana nei crepuscoli autunnali freddi, limpidi e scarlatti. Ma quando incontrava Gilbert Blythe per strada o alla lezione di catechismo, la domenica, lo evitava, gelida e impettita, ignorando sdegnosa il chiaro desiderio del compagno di fare la pace. Neppure gli sforzi di Diana, che cercava di farli riappacificare, servirono a nulla. Evidentemente Anna aveva deciso di odiare Gilbert Blythe per tutta la vita. Tanto detestava Gilbert quanto voleva bene a Diana con tutto l'amore del suo piccolo cuore appassionato, ugualmente intenso nell'amore e nell'odio. Una sera, tornando dal frutteto con una cesta colma di mele, Marilla trovò Anna che piangeva a calde lacrime seduta accanto alla finestra verso est. Cosa c'è ancora, Anna? È per Diana, singhiozzò la bambina. Le voglio tanto bene, Marilla, che non posso vivere senza di lei. Ma so perfettamente che quando saremo grandi lei si sposerà e se ne andrà, e io resterò sola. Come farò? Odio già suo marito, lo detesto già con tutto il cuore. Mi sono immaginata tutta la scena, il matrimonio e il resto, con Diana vestita con un abito bianco come la neve e un velo lungo, bella e distinta come una regina, e io che faccio la damigella e ho un vestito delizioso con le maniche a sbuffo, ma con il cuore spezzato, nascosto dietro il viso sorridente. Poi la saluto per sempre e qui perse completamente il controllo. E scoppiò di nuovo a piangere, sempre più disperata. Marilla si voltò di corsa per nascondere il sorriso, ma fu inutile. Crollò sulla sedia più vicina e scoppiò in una risata talmente sonora e inusuale che Matthew, il quale in quel momento stava attraversando il cortile, si fermò sbalordito. Quando mai gli era capitato di sentire Marilla ridere tanto? Oh, Anna Shirley, disse Marilla alla bambina appena riuscì di nuovo a parlare. Se proprio devi pensare ai guai, per favore cercali un po' più vicini a casa. Comunque, almeno una certezza l'abbiamo. Immaginazione, tu ne hai da vendere.